Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Radiobook. Oggi abbiamo un ospite super speciale. È un mio carissimo amico dai tempi dell'università, quando entrambi studiavamo cinema. Si chiama Lorenzo Talotti, è originario di Udine e ora studia cinema a Pescara. Ma la novità davvero entusiasmante è che il suo primo cortometraggio è finito al Melbourne Film Festival in Australia. E quindi non potevamo farci sfuggire l'occasione di fare un po' di domande a Lorenzo e soprattutto di chiedergli come è arrivato dove è arrivato. E che cosa sta facendo e quali piani ha per il suo futuro? Infatti Lorenzo è giovanissimo, alla mia età. Iniziamo con la prima domanda. Come hai iniziato e perché, Lori? Allora, iniziato come e perché? In realtà è divertente da ricordare. Adesso ti racconto una piccola storia, nel senso che io mi sono avvicinato alla recitazione in prima superiore quando avevo 14 anni, no? Allora, nella mia scuola si organizzava un'ora durante le ore di lezione. Durante la quale il gruppo di teatro della scuola presentava appunto il corso, no? Io non ne sapevo niente perché onestamente non mi interessavo molto le attività extrascolastiche. Un giorno era ricreazione, mi sono trovato come sempre con una mia storica amica, che è tuttora amica, ci conosciamo da 14 anni ormai. E lei mi ha appunto parlato, mi ha chiesto, ma allora tu vieni dopo alla riunione del gruppo di teatro? E io sono rimasto un attimo fermo, ho detto, riunione, gruppo di teatro? No, non so niente. Però le ho detto, sì, cavolo, vengo sicuro perché la lezione successiva avrei avuto italiano e non avevo fatto i compiti e sicuramente la professoressa me li avrebbe chiesti e molto probabilmente avrei preso 4, se non peggio. Allora ho colto la palla al balzo e ho detto sì, assolutamente vengo. Così, finita la ricreazione, ho avvisato la mia professoressa che c'era questa riunione. Lei, tra l'altro, super felice che io andassi a questa riunione. Allora sono andato e c'era tantissima gente in realtà, quindi non capivo se effettivamente questo gruppo di teatro fosse una cosa epocale o se effettivamente tanti avessero fatto la mia stessa scelta. Al che a un certo punto un ragazzo del gruppo di teatro si è alzato e ha praticamente ordinato alle persone che non erano interessate di andarsene perché c'era un caos bestiale. Io sarei stato una di quelle persone, ma non potevo permettermi di tornare in classe perché avrei preso 4, così sono rimasto lì fino alla fine. E alla fine dell'ora hanno chiesto giustamente i nominativi e la classe di appartenenza e quindi lì ho detto, cavolo, è fatta, nel senso adesso sono bloccato, devo per forza andare al primo incontro di teatro. E io continuavo a non essere interessato, sono andato al primo incontro e bah, cioè lì è successa la magia, non so cosa effettivamente sia successo, ma ho avuto quella sensazione di sto iniziando quel percorso che probabilmente cambierà le regole della mia vita, nel senso che poi ogni lezione veramente diventava qualcosa di più bello, scoprivo qualcosa di me, scoprivo modi di vedere le cose e di dire le cose che non erano a me ancora conosciuti. E quindi si è aperto praticamente un mondo davanti a me, un mondo che ho iniziato a esplorare a 14 anni e sto continuando a esplorare adesso che ne ho 11, e oh sì, 11, adesso dopo 11 anni di recitazione, quando sono quasi ormai giunto alla fine dei miei studi, perché fra 4 mesi prendo il mio diploma da master alla scuola di cinema che sto frequentando. Quindi diciamo che c'è stato un percorso ampio. Ecco, questa è la mia storia di come ho iniziato la recitazione. È buffa, però non so, probabilmente quella lezione è stata la lezione più bella che io abbia mai saltato in tutta la mia vita, la decisione più bella che abbia mai fatto così su due piedi. Forse le decisioni migliori arrivano anche così, senza pensarci troppo, perché se poi cominciamo a pensarci, si crea sempre qualche dubbio, no? Quindi hai cominciato studiando teatro e adesso sei finito a fare cinema. Quale ti piace di più e per quali motivi? Il teatro rispetto al cinema, in realtà non. Allora, io, come ho già detto, no, sono iscritto a questa scuola di cinema e in realtà sono anche laureato in cinema nel 2014. ho preso la laurea all'Università di Udine e tra l'altro ho fatto anche il, come si dice, il giudice alla Mostra del Cinema di Venezia alla 71ª edizione nella sezione classici, quindi davamo il premio al miglior film restaurato e al miglior documentario, esperienza indimenticabile veramente. Comunque, in realtà la recitazione del teatro rispetto alla recitazione del cinema, diciamo che la base è la stessa, poi è la maniera in cui si va a enfatizzare un ruolo che cambia, perché giustamente quando sei a teatro devi far arrivare le emozioni anche alla persona che sta nel posto della galleria più lontana dal palco, mentre al cinema è la fortuna, o comunque è l'agevolazione del fatto di avere i microfoni, di avere una ripresa in primo piano piuttosto che in figura intera. Comunque c'è una dimensione molto più vicina allo spettatore nel cinema, no? Quindi in realtà io ho iniziato col teatro e poi mi sono spostato al cinema, ma non rinnego nessuno dei due, nel senso che se in un futuro mi dovessero proporre un ruolo importante per teatro, probabilmente lo accetterei, così come accetterei un ruolo importante per il cinema. Personalmente sono più incline al cinema perché riesce a darmi più emozioni. Lo guardo dopo aver fatto l'università, lo guardo con occhio diverso, riesco a entrare nelle storie e quindi questo è molto bello in realtà. E vorrei fare giusto un appunto, no, no un appunto, un ricordo che mi piacerebbe condividere. Io mi sono avvicinato al cinema grazie a mia mamma, in quarta superiore soprattutto, era il 2010. Allora, mia mamma era una grandissima appassionata di Via Col Vento, lo sapeva praticamente a memoria, aveva letto libri, ho un cofanetto a casa di Via Col Vento con all'interno 4 CD per un totale di 8 ore di contenuti speciali, più il quinto CD che è il film ovviamente, diviso in due CD in due parti perché era troppo lungo, ma vabbè. E nel 2010 il cinema di Udine aveva fatto una promozione che si chiamava Cine City Legend e praticamente riportava al cinema dei grandi classici restaurati e hanno riportato Via Col Vento. Allora mia mamma tutta contenta, qualcuno la doveva accompagnare, ma nessuno l'accompagnava. Allora le ho detto: va bene, ti accompagno io. Non l'avevo ancora mai visto io Via Col Vento. L'ho visto. Quando l'ho visto, ho capito effettivamente il motivo di questo enorme successo e perché ancora oggi se ne parla. Allora, da lì mi sono cominciato ad avvicinare un po' di più al cinema e mia mamma ha cominciato a farmi vedere alcuni film con Meryl Streep, che, vabbè, attrice leggendaria, sappiamo, non si sa, 20 candidature all'Oscar in tutta la sua carriera. E ho cominciato a vedere i suoi primi lavori, cioè, primi lavori, o comunque quelli più vecchi, quindi non so, La mia Africa, La scelta di Sophie, Kramer contro Kramer. E questi qua, no? I ponti di Madison County. E da lì ho maturato l'idea di andare a studiare cinema all'università. Poi con l'università ho fatto l'Erasmus, ho avuto la possibilità di fare l'Erasmus a Bruxelles, dove ho maturato appunto l'idea di unire la mia passione per il cinema alla mia passione della recitazione che non avevo ancora abbandonato. E quindi ho cominciato a cercare un'accademia che potesse darmi questo tipo di esperienza. Scrivere, interpretare, riprendere, fare scenografie, insomma ci sono mille cose nel mondo del teatro e del cinema. A te quale piace fare di più? So che scrivi e che reciti. Tra le due quale preferisci? Tra scrivere e interpretare un film o un ruolo, io preferisco interpretarlo, però. Perché nel senso che nell'interpretazione si riesce a dare qualcosa in più forse rispetto a quello che cioè è portare in vita quello che è scritto su carta e questo è un processo che ha del magico, no? È lo stesso tipo di magia che probabilmente avevo sentito all'inizio quando avevo 14 anni. Però, voglio dire, nonostante io sia incline più all'interpretazione che alla scrittura, ciò non significa che in un futuro non voglia scrivere qualcosa. Io ho scritto una mia sceneggiatura, un mio cortometraggio, che però per varie ragioni non riesco ancora a portarlo alla luce. Però in un futuro, non, voglio dire, non, chissà, non si sa mai. Gli studi li ho fatti, le capacità, bene o male, ce le ho. Io non sarò Alan Sorkin, ma insomma, non sarò chissà chi nella scrittura, però potrebbe essere un'esperienza anche quella, scrivere un proprio film e magari anche interpretarlo. Però mi piace di più interpretare. Poi ci sono storie un po' più vicine a me, storie più lontane. A me piacerebbe spaziare. Io amo in assoluto quegli attori che riescono a dare corpo a personaggi completamente diversi tra loro, perché quella lì vedi veramente la dedizione di un attore nel proprio lavoro. E vedere che riescono a fare tanti tipi di personaggi diversi, secondo me ha quella marcia, è un attore che dal mio punto di vista ha quella marcia in più. Per questo io ammiro questi attori qua e punto a fare lo stesso. Ovviamente sono più semplici da interpretare dei ruoli nelle storie drammatiche piuttosto che nelle storie comiche. Ma questo se non altro perché è sempre stato più facile far commuovere, far piangere un pubblico piuttosto che farlo ridere. Perché magari quello che fa ridere a me non fa ridere a te. I tempi comici sono molto più complessi anche da gestire, sia dal punto di vista di uno che scrive, sia dal punto di vista di uno che interpreta. A me personalmente piacciono quelle storie in cui ci sono, cioè che sono prese dalla vita reale, da fatti di cronaca, da persone che hanno svolto qualcosa di particolare che è bello da raccontare, da rivivere in qualche modo, no? Allora, se posso, mi piacerebbe citare una parte del discorso che ha fatto Viola Davis quest'anno, quando ha ricevuto il suo primo Oscar, per un'interpretazione meravigliosa nel film di Denzel Washington, Fences, Barriere. E lei ha detto, ha riportato questo stesso concetto, no? Gli hanno chiesto cosa le piace interpretare. Lei ha detto, mi piace riportare in vita le storie di quelle persone che hanno amato, che hanno sognato, ma che non hanno avuto il tempo o il coraggio o la possibilità di vedere i propri sogni realizzarsi. E la cosa bella del cinema è proprio questa, che riesce a viaggiare nel tempo e riportare in vita delle storie che rischiano di essere dimenticate. E il cinema ridà vita a queste storie, grazie anche alle interpretazioni appunto degli attori che si immergono nelle storie. E questo è quello che io voglio fare, riportare in vita le storie che il tempo ha deciso essere cancellate in un certo senso, E adesso passiamo alla domanda cattiva. Inseguire i sogni, perché, come e soprattutto come non buttarsi giù quando non arrivano i risultati che vogliamo e soprattutto quando non arrivano nei tempi in cui li vorremmo. quanto riguarda me, io da quando ho 14 anni non mi sono mai fermato. Ho continuato a seguire questo mio sogno, e è un sogno che diventa ogni giorno sempre più grande. Quindi mi sto battendo veramente con tutta la determinazione di questo mondo, e alle volte è anche molto frustrante perché magari non riesci a vedere dei risultati che ti arrivano. Ho quasi 25 anni e magari vedo modelli di attori italiani, non italiani, che arrivano sul grande schermo molto prima di me, e quindi dico: ma perché loro sì e io no? Forse non è ancora il mio tempo, ma è ovvio che nella mia testa si apre anche quel pensiero: forse non sono abbastanza, forse non ho quel qualcosa che gli altri attori invece hanno. Però probabilmente la mia determinazione mi porta a combattere, nonostante io cada magari in continuazione, mi porta a combattere, combattere, combattere. E devo dire la verità, questa lotta continua ha portato comunque dei suoi primi risultati. Difatti, il mio primissimo cortometraggio che ho fatto grazie alla scuola di cinema che sto frequentando, esattamente il 17 di febbraio, è stato selezionato in concorso al Phoenix Film Festival di Melbourne in Australia e ci hanno consegnato già il certificato, ci hanno consegnato il logo con scritto Official Selection. Non abbiamo vinto niente, ma questo non. Il premio ha un'importanza, diciamo, anche relativa. È chiaro che se vinci sei molto più felice, però voglio dire, il fatto che un piccolo cortometraggio praticamente indipendente, con una tematica molto contorta, perché è un cortometraggio particolare, un po' visionario, un po' ricercato, sia come linguaggio sia come storia stessa, sia riuscito ad uscire dall'Italia e ad essere selezionato in un posto che praticamente dalla parte opposta al mondo, la parte opposta dove sto vivendo io. Vuol dire che qualcuno da un'altra parte del mondo riconosce quella piccola cosa che io potrei avere per dare un contributo al mondo del cinema. Allora questo piccolo successo fa sì che io allora ampli ancora di più gli orizzonti e magari possa aspirare anche ad una recitazione in lingua straniera, per esempio. Conosco quattro lingue perché non sfruttarle allora al meglio? È chiaro che devo avere la possibilità di farlo, però la possibilità arriva, bisogna cercarsela, però prima o poi arriva. A forza di dai e dai, qualcosa deve per forza arrivare. E quindi questo, il fatto di avere avuto questo piccolo risultato mi rende molto fiero di me stesso. È gratificante sapere di essere apprezzato da qualche parte nel mondo e spero di rendere insomma anche fieri un po' i miei genitori, mia madre soprattutto, che è stata il mio punto di riferimento e in realtà lo è tuttora. E niente, questo è un mondo bellissimo il cinema, è una cosa spettacolare, veramente spettacolare. Spero vivamente di poterci entrare perché ho gli occhi sognanti. Se le persone che mi conoscono lo sanno. Io quando guardo un film, quando guardo degli attori, quando vedo l'impegno, quando vedo determinate storie, mi perdo dentro il mondo del cinema. È qualcosa di veramente speciale, unico e, ripeto ancora per la terza volta, veramente magico. Un mega mega grazie per essere stato con noi. Ti mando un bacione e mando un bacione anche ai nostri ascoltatori. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!